got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Benvenuti, buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo nuovo appuntamento accompagnati come ogni settimana dalla musica del film Indovina chi viene a cena, a cui abbiamo preso a prestito il titolo, dalla voce di Spencer Tracy che ci riporta agli anni 60, ai problemi di integrazione fra bianchi e neri, in quel caso in America. Che aspettiamo a metterci a tavola, dice l'attore, come lui anche noi. Pensiamo che attorno a un tavolo si parli meglio e parlando di cibo si possono attraversare i confini culturali, la diffidenza nell'assaggiare nuovi gusti, scoprire nuovi profumi, imparare come l'Italia sta cambiando, perché in cucina come nella vita i gusti cambiano. Mi scuso per la voce di oggi molto raffreddata, ma diamo subito il benvenuto all'ospite di oggi che è il ministro Cécile Kyenge. Buon pomeriggio, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie dello spazio. Che cosa ci cucina oggi? Qual è il suo piatto preferito? Quello che cucina di preferenza, perché magari le ricorda qualcosa del suo paese di origine o dell'Italia di dove lei attualmente vive. Il cibo è quello che accomuna un po' le diverse culture, i diversi popoli. Cioè, io in genere sono due piatti su cui mi esperimento spesso e sono anche piatti su cui mi sento anche abbastanza forte nel cucinare. Una è i cannelloni. Avendo vissuto con mia suocera che è di origine calabrese, poi arricchendo i cannelloni anche con fantasie che possono essere quella dell'Emilia, per me sono un cibo che attraversano un po', che racchiudono un po' tutta la mia storia. Sì, perché lo diciamo per chi non lo sapesse, lei è di origini congolesi, è arrivata in Italia per studiare a Roma, poi ha vissuto a Modena e adesso vive a Castelfranco Emilia col marito che è calabrese, quindi un mix insomma di cucine diverse. Esatto, e l'altro piatto sono foglie di tapioca, che è uno dei piatti molto, molto buono ma anche molto richiesta nella Repubblica Democratica del Congo, e questo piatto accompagnato anche proprio con la tapioca stessa, cioè cucinata, questa verdura che è cucinata in un modo particolare, e molte volte io l'accompagno con il pollo fatto con la salsa di arachide, la salsa base di burro di arachide, è veramente molto molto squisito, insomma, quindi quando lo mangia mi ricorda, mi riporta un pochettino anche alla mia infanzia, al mio percorso in Congo. Dall'altra parte il piatto che ho imparato dai miei suoceri. Le piace cucinare? Prima di sposarmi non tanto, ma dopo quando mi sono sposata sì, perché vedevo la passione con cui cucinava mia suocera, perché aveva sempre insomma una tavolata, invitava sempre delle persone. Senta, ma quando ha conosciuto i suoi suoceri, no? Si è seduta a tavola con queste persone la prima volta, immagino che non la conoscevano, che impressione ha avuto della reazione dei suoi suoceri? È una situazione un po' che ritorna nel film al quale noi ci ispiriamo, no? Indovina chi viene a cena, al contrario di una ragazza bianca che presenta un ragazzo nero. Lei ha avuto l'impressione che fossero in qualche maniera in difficoltà? No, non hanno mai fatto riferimento al colore della mia pelle, casomai ci siamo confrontati più volte sulle diverse cucine, sul cibo, su altre cose, tant'è vero che li ho portati anche nel paese di origine a conoscere parenti, a conoscere anche proprio quelli che sono le tradizioni, i genitori. Conoscere una persona, questa curiosità, aiuta proprio ad eliminare anche qualunque altra forma di discriminazione e di razzismo. Sto lottando e questo affanno mi dà la forza per farlo. La mia pelle è del colore della terra, cambia quando è sotto il sole come inchiostro su un'agenda. Quando scrivo queste frasi è come terapia, un uomo che si sente libero scrivendo una poesia. Quando incrocio le mie mani lo faccio per pregare, il mio pensiero va alle vite in bilico là in alto mare. E se sono qua io ringrazio mio padre che ha lasciato tutto, ha trovato il coraggio per scappare. Io figlio delle ambizioni della vita. È la prima volta, è inutile che ci giriamo attorno, che in Italia abbiamo un ministro nero. Lei ci tiene molto a questa definizione di essere una persona non di colore, ma una donna nera. Ma io credo che parlare di colore sia anche una forma un po' ipocrita, insomma, per cercare di aggirare un pochettino quello che è la realtà. Cioè, io sono una persona nera e quindi devo essere definita per quello che sono. Volo libero, rincorro i miei pensieri con il cuore che batte forte come per gli atleti. La mia pelle del colore della sabbia è lo stesso della carta sui muri di questa stanza. Nel mio sangue c'è anche quello di mia mamma, un bastardo da quando ero nella pancia. Di lottare non ho smesso mai un minuto, ho i segni addosso di ogni dramma che ho vissuto. La mia pelle non la venderò a nessuno e mi ricorda tutti i giorni che sono il numero uno. E non pensavo che finisse così. Ministro, lei conosce questo film a cui noi così prendiamo spunto per la nostra trasmissione? Sì, esatto, l'ho visto più volte, sì, esatto. È un film molto vecchio, del Giurassico ormai, in bianco e nero. Parla di problemi che in America probabilmente non esistono più. C'è un presidente nero, quindi forse in Italia non è proprio così. Non ci giriamo attorno proprio perché non vogliamo essere ipocriti al fatto che lei è stata duramente contestata da diversi esponenti della Lega Nord. Ho visto anche di recente a Pesaro da Forza Nuova. Ci sono state queste contestazioni, l'hanno stupita? Le hanno fatto male? Ma io credo che in ogni passaggio, in ogni cambiamento ci sono sempre questi momenti di contestazione, di sofferenza, perché il cambiamento è sempre difficile da accettare, per cui il cambiamento è sempre accompagnato da percorsi di confronto, a volte che può essere anche un confronto molto aspro. Io credo che però la cosa che dobbiamo cercare di far passare, il messaggio da far passare, è che noi anche attraverso un confronto dobbiamo cercare di far passare la cultura della non violenza. La cultura della non violenza e del rispetto verso l'altro, perché quando ci si confronta pur avendo idee molto opposte, bisogna cercare di farlo nel rispetto dell'altro. C'è stata una forte presa di posizione forte da parte della Lega, in particolare da Mario Borghezio, che poi però scusandosi l'ha invitata a cena. Siccome noi parlavamo appunto di un invito a cena, andrebbe a cena con Mario Borghezio? Ma l'invito a cena io l'ho letto sui giornali, non è mai arrivato sulla mia scrivania, non ho mai ricevuto nessuna telefonata, l'ho letto sui giornali. E ci andrebbe? Ma io aspetto l'invito e poi si valuta. Senta, questo è un governo di larghe intese, appunto. È una situazione in cui due parti che per anni si sono fronteggiate in maniera anche molto dura si devono collaborare assieme per alcune riforme importanti. Con chi non andrebbe mai a cena tra il PD e il PDL? Ma io credo che andare a cena si fa cena con tutti, cioè, se noi siamo in un governo così atipico, cioè nel senso che abbiamo pensieri, insomma, proveniamo da da storie politiche un po' diverse, noi dobbiamo cercare degli elementi che ci accomunano anche per cominciare ad affrontare motivi, problemi, esigenze che magari fuori da quel contesto sarebbero impensabili, insomma, da mettere insieme o da affrontare. E quindi è difficile dire che persone con cui non si va a cena. Una grande tavolata, insomma. Ma esatto. Se lei avesse un tête à tête, visto che fa parte del PD, le chiedo proprio e vorrei una risposta proprio decisa: preferirebbe un tête à tête con Renzi o con Bersani? Nei miei confronti quella domanda non ha una risposta ben precisa. La mia risposta è la storia della mia vita, dove mi sono trovata a confrontarmi con persone che sono completamente diverse tra di loro, per cui Renzi o Bersani per me sono due persone magari con cui posso parlare di temi che sono non sono uguali, ma non c'è una preferenza tra l'uno e l'altro. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Lei quando è arrivata in Italia, appunto, doveva studiare all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, poi c'è stato un problema con la borsa di studio e alla fine è rimasta i primi tempi in maniera illegale. Se leggo bene, ha lavorato anche come badante all'inizio. Come ricorda questi primi anni in Italia? Ha mai subito del pregiudizio, del razzismo? No, diciamo che era difficile perché eravamo veramente pochi. Bisogna dire che io sono entrata in Italia con una borsa di studio, cioè il mio visto di ingresso in Italia era un visto per studio e quindi probabilmente anche per mancanza di conoscenza della mia vita sono state messe in giro comunque alcune voci. È vero, le difficoltà ne ho avuto tante, difficoltà a poter trovare un lavoro, difficoltà a poter, quindi oltre a quello ho dovuto fare anche la babysitter accompagnando anche bambini nei campi scuola. Diciamo che è stato un periodo molto molto difficile, molto duro, anche perché non era facile, insomma, a quell'età comunque avere sempre pronta l'idea che quella era l'obiettivo e mantenerlo fino alla fine. E devo anche ringraziare comunque molte persone che ho trovato sulla mia strada e che in questo percorso, che sono italiani anche, e anche un sacerdote ungherese, e bisogna dire che queste persone che ho incontrato lungo il cammino della mia vita hanno saputo dimostrarmi anche quella parte nascosta che magari non viene valorizzata abbastanza dall'Italia. La solidarietà, l'accoglienza che già sul territorio e dal basso noi lo troviamo in tante persone. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena? A dirci cosa ci resta, darci una motivazione per vivere ancora una vita come questa. Dici cosa ci aspetta, spiegaci perché nella nostra city c'è chi muore per una sigaretta. Dimmi perché nel mio paese non vengo giudicato per le mie imprese ma per il colore della mia pelle. Quando veniamo tutti dalle stelle stiamo aspettando una risposta, padre dici quanto costa tutto quello che abbiamo. Rientriamo a parlare con il nostro ospite, il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. Ho messo questa musica che non so se conosce perché è una canzone hip hop di un gruppo torinese formato da un ragazzo di origine marocchina e un ragazzo di origine congolese. Due ragazzi, insomma, che guarderanno a lei con molta speranza, come un esempio positivo, come tantissimi altri ragazzi in Italia. Si rende conto che lei rappresenta per queste persone veramente l'esempio di una persona che ha cambiato, ha forgiato la sua vita, è arrivata a 20 anni qui, poi adesso è ministro della Repubblica, è un esempio di avvenuta integrazione, no? Sì, esatto, il fatto di essere stata nominata ministra dell'integrazione, quindi per la Repubblica Italiana, sia veramente una grande responsabilità nei confronti di tutti i giovani, nei confronti anche di molti, non soltanto migranti, ma proprio dei giovani, darle una speranza e cercare di vedere che veramente si può vivere in un mondo anche diverso, dove le differenze devono costituire una ricchezza, una risorsa, e non soltanto dividere le persone. Quindi nei confronti di tutti questi giovani io mi sento comunque una responsabilità molto, molto grande, quella che mi deve permettere anche di cercare di non deluderli, cercare anche di farli capire che anche loro, cercando di essere d'esempio anche a tutti gli altri, si può dare un contributo abbastanza forte anche a rafforzare la cittadinanza italiana. I giovani che io ho intervisto nella nostra trasmissione spesso mi dicono che la priorità per loro, come per i giovani di origini italiane, è quella del lavoro. Quindi lei, quando ha lanciato la proposta dello Ius Soli, pensava che questa e pensa che sia prioritaria anche per i giovani di origine straniera, oppure che forse il lavoro sia la priorità? Bisogna vedere come viene concepito il lavoro, perché il lavoro è legato alla vita di una persona sul territorio. Se non si ha non si hanno dei documenti, se non si ha anche un riconoscimento sul territorio, è difficile trovare il lavoro. E quindi quando si parla di diritti di una persona e quando si parla di lavoro, vanno insieme. È difficile suddividere, soprattutto per quanto riguarda una persona di origine straniera, che il permesso di soggiorno è collegata anche con il lavoro. Quindi senza permesso di soggiorno la persona non può trovare il lavoro. Quindi ringrazio anche proprio di questa domanda, perché molte volte si pensa che questo sia un argomento così fuori dal tema del lavoro, mentre dimentichiamo che noi tutti dobbiamo lavorare per eliminare anche quello che è il lavoro nero. Il lavoro nero è fatto anche di persone che non hanno i documenti, che sono irregolari. Come facciamo a dargli una mano? Parlare di cittadinanza, parlare di un percorso di integrazione, non è così lontano dal parlare del mondo di lavoro. Ho capito, è parallelo ed è importante altrettanto. Cosa propone quindi per regolarizzare tutta quella serie di giovani che in effetti molti dei quali magari lavorano in nero? Ecco, io credo che in questo momento io non posso affrontare questo tema da sola. Se io parto dal presupposto che io faccio parte di una squadra. Questa squadra è composta da diversi settori, il ministro del lavoro, il ministro degli interni, il mio che è il ministero dell'integrazione, che per affrontare alcuni temi come questo, che è molto importante, e quindi sicuramente arrivare a dare una proposta, una soluzione, bisogna comunque trovare un dialogo, un percorso comune, e sicuramente ben presto si possono affrontare anche questi temi. Vi faccio solo alcuni dati. Noi abbiamo 2.300.000 lavoratori di origine straniera che versano nelle casse dell'INPS oltre 8 miliardi e quindi mantengono all'attivo le casse dell'INPS. Si parla molto spesso di diritti, ma qua bisogna parlare anche di doveri che molte persone fanno già. E quindi io non mi soffermerei soltanto alla cittadinanza, soltanto per quanto riguarda la nazionalità. Si parte da lì per un inizio di integrazione, ma bisogna considerare a questo punto, quando si include anche il mondo del lavoro, di una cittadinanza intera, di tutta la cittadinanza, perché viene rafforzata laddove i diritti di tutti vengono rispettati. Una speranza è tutto ciò che vogliamo, non ci fermeremo fino al giorno in cui non moriamo. Allora che ci resta? Dici che ci resta? Dimmi, questa vita è tutto quello. Quando lei ha parlato di Ius Soli si è scatenato un putiferio. In realtà è una legislazione che in Europa ha solo la Francia. Invece in altri paesi di solito c'è uno ius in Europa, intendo, ius sanguinis, più morbido di quello italiano, più integrato. Non potrebbe lo ius sanguinis modificato essere una chiave di volta per mettere assieme, insomma, le tante sensibilità all'interno del governo e anche del paese? In questo momento noi abbiamo 20 proposte di legge depositate presso il Parlamento, che spaziano comunque su tanti fronti, tenendo presente che l'Europa sta andando sempre di più verso lo ius soli temperato, e quindi ogni paese europeo ha una propria storia dell'immigrazione, ogni paese in Europa ha un'immigrazione che tende a essere sempre più stabile, a cui bisogna dare delle risposte. Da parlamentare avevo avanzato una proposta di legge, ma oggi da ministro la mia posizione mi impone un confronto con tutte le forze politiche, un confronto soprattutto all'interno del Parlamento, di quelle 20 proposte di legge che io seguirò con attenzione, per riuscire a trovare un modello sempre più compatibile con la storia e la fotografia dell'Italia di oggi. Un altro grande tema per gli stranieri in Italia è quello dei centri di identificazione ed espulsione. E ci sono diversi report tracciati da Onlus e ONG che parlano di luoghi inadeguati dal punto di vista strutturale e funzionale. Vanno chiusi? Questo tema è di pertinenza del Ministro degli Interni, per cui è la mia opinione da Ministro. Non può essere che quella del dialogo, del confronto con chi si occupa di questo tema per riuscire a trovare una soluzione insieme. Di sicuro, laddove ci sarà la possibilità di avere una collaborazione sempre nell'ambito dei miei compiti, di sicuro potrò dare il contributo verso un'Italia sempre più con una politica di accoglienza. Differenze che noi abbiamo imparato a scoprire anche in cucina, e quindi diamo le ricette del ministro Chieng. Cannelloni alla calabrese. Ingredienti per 4 persone: 300 g di lasagne, 400 g di carne tritata, 100 g di salsiccia dolce sbriciolata, 50 g di salame calabrese o di altro tipo un poco piccante tritato, 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine, 20 g di burro, 2 uova sode, 4 cucchiai di pecorino grattugiato, una cipolla tritata, sale e pepe. Rosolate brevemente con l'olio d'oliva in un tegame piuttosto capiente la cipolla tritata, la carne, il salame e la salsiccia. Bagnate con mezzo decilitro di acqua, regolate di sale e di pepe e fate cuocere per 30 minuti. Sgocciolate poi la carne e i salumi usando un mestolo forato. Raccoglieteli in una ciotola e aggiungete mescolando le uova tritate. Lessate i rettangoli di pasta in abbondante acqua salata. Una volta cotti, stendete al centro di ciascuno una porzione del ripieno preparato e poi arrotolateli. Adagiateli in una pirofila imburrata. Irrorateli con il fondo di cottura della carne e cospargeteli con il pecorino grattugiato. Mettete la pirofila nel forno già caldo a 180 gradi e fate gratinare i cannelloni per circa 20 minuti. Pollo con salsa di arachidi alla congolese. Il pollo muambé è una ricetta congolese che comprende il pollo con una salsa a base di arachidi e di manioca. Per noi europei la manioca è più nota come tapioca e si trova in commercio come fecola o come radice. Ma questa ricetta prevede l'uso delle foglie della manioca. Chi non riuscisse a trovarle può sostituirle con spinaci o bietole, anche se il risultato sarà ovviamente diverso. Ingredienti per 4 persone: 4 cosce di pollo, 100 g di burro d'arachidi, 100 g di foglie di manioca, in alternativa bietola o spinaci, 2 cucchiai di olio di palma, 2 foglie d'alloro, 2 bicchieri d'acqua, un peperone rosso, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe quanto basta. Mettete le foglie di manioca in una pentola con acqua bollente e cuocete per 90 minuti. Se si usano bietole o spinaci, la cottura sarà molto più breve. In una padella scaldate l'olio di palma e rosolateci le cosce di pollo sino a completa doratura. Nella padella con il pollo aggiungete l'acqua, il burro di arachidi, l'alloro, l'aglio tritato, il peperone tagliato finemente, sale e pepe. Cuocete il tutto per circa 60 minuti. Alla fine della cottura, servite versando il pollo con la salsa su un letto di foglie di manioca. Accompagnate con riso bianco. La puntata termina qui. Io ringrazio in regia Carmelo Lauricella, ringrazio soprattutto l'ospite di oggi che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, il ministro Cécile Kyenge. Buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buon proseguimento, grazie. A tutti buon pomeriggio, mi trovate anche su Twitter @Valfurla e trovate le ricette sulla pagina del programma all'interno del sito internet di Radio 24. Buon appetito a tutti e ricordate, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.